Oggi volevo che ci facessimo delle domande. Perché? Come ti permetti? Perché io ho qua il libro delle risposte. Il libro delle risposte di Carol Bolt, questo lo sappiamo stavolta. Ovviamente queste risposte sono un po' arcane. Posso cominciare? Oh, io ho già una domanda. Esponi la domanda, allora, e poi vediamo il nostro libro. E devo che aprire cosa... a caso, no? È giusto? Prima fai la domanda. Però. Certo, sì. Circostanziamola. Allora, c'è un rito da fare prima di aprire il libro, qualcosa del genere? No. Io lo sto toccando, tipo. Perché c'è una spirale. Madonna, ma è di velluto. Certo, per quello che l'ho comprato. Io l'ho comprato a caso in una libreria. E poi hai saputo che era il libro delle risposte. E dopo ho saputo che... Allora, Simona! Sì! Allora, benvenuta a Radio Ned. Dai, Marcolino. Noi praticamente qua, Simona, abbiamo un libro dove ci sono tutte le risposte e ci stiamo esercitando a formulare delle domande, perché questo libro comunque ci risponde. E niente, vogliamo una domanda anche da te. C'entra, devi toccare il libro. Ah, toccarlo, lo tocco. Cosa c'entra l'estemporaneità col mondo in cui siamo, con la nostra società? Cosa c'entra? Sì, con la società consumista. Con la società nostra. Posa il tuo sguardo su tutto con occhio amichevole. È una cosa che mi sono sempre chiesto. Non puoi toccarlo te mentre lo tocchi. No. È tutto personale. Perché l'universo femminile sembrerebbe lontano da... Sembrerebbe che si tenga in disparte dal nostro... da questa avventura dell'estemporaneità. Dico in generale. Ho capito. Simona è in dubbio. Sì. Il genere di Simona. Certo, però è una, noi siamo in tanti. Ah, ok. Cioè, non c'è solo Simona, ci sono le donne, però. Sì, però sembrano schive, ecco. Vai. Come mai? Le donne. Insomma, perché le donne ci schifano, insomma? No, questa non è che ci schifano, vediamo. È la donna cattolica italiana che è un po'. Vediamo. Un po' reschia, che dici? Come quando aprivano la Bibbia a casa. L'acqua che cade, goccia a goccia, scava la pietra. Oh, lo vedi? PS, ma è perché non ci vedi un cazzo, Marco? Grande! Crudelia e Macio, si ameranno mai? Perché c'è questa esigenza di creare un confine per definire una cosa? Pronto? Salve, pronto, benvenuto a Radio Ned. Pronto, chi è? Qual era il nome del faraone della 18ª dinastia? Della 18ª? La risposta il è... Il regno antico. Questo esperimento della radio... Ma dove andrà a finire? A cosa ci porterà? È meglio suonare piano o suonare forte? Domanda di riserva. Quanto cresce un albero al giorno? Perché? finito. Riteniamo che disco il suono sia curativo. Come mai nelle nostre improvvisazioni l'ispira... sempre qualcosa che non va. L'ispirazione è più, è sempre più breve dell'espirazione. Una domanda. Uffa, una domanda. Ma perché ogni tanto ci sono delle contrarietà? Cosa vuol dire radio soggettiva e radio oggettiva? Perché nelle improvvisazioni c'è questa smania di riconoscersi, di capire chi suona questo, chi suona cosa, chi quando, suona... perché e perché? Questa è veramente quasi una puttanata sto libro, eh? Per ricordarci, è una si ricordavano mancazzo. Vediamo. L'artista, no? Si sforza come successo. Capitano, una domanda? Perché il capitano non vuole far domanda? No, una domanda. Dai, la domanda del capitano. Fino a che punto la musicalità, eccetera, fino a che punto no, il suono, perché la parola suono non mi piace, non vuol dire niente. Cioè il suono è anche l'ambulanza che passa, no? Capito? È il famoso effetto Doppler. Che scema perché è in movimento, capito? Essendo in movimento l'ambulanza, che ha l'effetto Doppler, che si abbassa le frequenze. In realtà, fino a che punto la musica ha un potere, ha un potere folle inconscio, come il pifferaio che incanta tutti quanti i sorcetti che passano, no? È quello, e sta proprio lì il concetto. La domanda è questa, fino a che punto, ha a che fare anche col cinema questa cosa, perché al cinema... In realtà ciò che passa all'inconscio di più è la musica, non l'immagine. Capito? Cioè, è uno scavallamento totale, quindi fino a che fase infantile riesce a tornare il cervello umano? A noi sta strana che entra. Capito? Ritorni proprio alla fase pre-edipica, la fase pre-narcisista. Che il pubblico se ne quindi pensa. Rientri in uno stato. In uno stato di. Sì, l'illuminazione. Certamente è l'illuminazione buddista. Perché ritornando a quella fase, hai bloccato. Come si dice? Ma qual è la domanda? Hai bloccato il ciclo delle rinascite. Cioè, capisci? Come dicevi te, il potere curativo sta proprio là. È una cosa proprio buddista. Io vorrei fare ascoltare. La domanda è questa: fino a che punto si riesce? Fino a che punto, ascoltando musica di qualità, che ti lascia steso morto, proprio annulli la nascita? È come se diventi uno sferato, praticamente, no? Ti annulli mai nato. È quello il livello dell'inconscio a cui si può tornare. Ascoltando musica di qualità. Ha un potere immenso. Vero o falso? Vero o falso? Io no. La domanda è questa. Fino a che punto? Vediamo che dice il libro delle risposte. Il fiume scorrerà grazie al contributo di piccoli ruscelli. c'entra un cazzo. Ma invece no, hai fatto sì, proprio una c'entra. Domanda a fiume tu. Fai un po' di esegesi. Siamo un po' carenti di esegesi, ragazzi. Sti bronzetti di Michelangelo, ma secondo voi sono autentici? A me mi pare di no. Ma se fosse che l'utopia però della musica estemporanea invece è che non ci sia più la divisione tra il pubblico e chi suona. Ecco, appunto, a me viene a me come parola mi veniva, come parola chiave mi veniva, non so perché, non mi veniva dialogo, pubblico, no? Sì, sì. Veniva l'ascolto è dialogo, no? È dialogo. Però ci sono, secondo me, improvvisazioni più prevedibili, più certo, più sì. prevedibili e improvvisazioni più stupefacenti. Sti bronzetti di Michelangelo, ma secondo voi sono autentici? A me mi pare di no. Se il pubblico inteso in maniera classica fossero semplicemente dei musicisti che hanno deciso di far silenzio mentre gli altri suonano? Sti bronzetti di Michelangelo, ma secondo voi sono autentici? A me mi pare di no. Se i musicisti suonando quello che stanno suonando si auto emozionano, si stupiscono di quello che sta avvenendo, questo stupore passa in quella musica anche a te ascoltatore. Per cui sti bronzetti di Michelangelo, ma secondo voi sono autentici? A me mi pare di no. D'uso della posologia, della metodologia, della posologia d'uso. Uscirà mai un disco del capitano? Tu apri a caso e leggi con voce e con voce attoriale. La più alta forma di grazia è il silenzio. Funziona! Funziona! Si può fare! Sì! Si può fare!